Storie italiane. La pentola magica. Questa storia narra di un contadino e della sua pentola magica. In un villaggio lontano viveva un contadino di nome Rama. Rama era un uomo buono e saggio. Possedeva pochi acri di terra. Sebbene fosse un buon contadino, la sua terra non ha mai prodotto grano. Mentre altri agricoltori raccoglievano e seminavano, Rama soleva arare, arare e arare. Ma la sua fattoria era sempre sterile. Oh, Rama! Perché continui ad arare ogni giorno? Questa terra è maledetta, non ti ha dato un solo raccolto ormai da molti anni. Dovresti vendere questa terra e comprare una buona terra da qualche altra parte. Oh, fratello, questa terra appartiene ai miei antenati. Erano soliti coltivare su questo terreno. Avrò fatto qualcosa di sbagliato. Continuerò a provare. Come vuoi, ti auguro tutto il bene, fratello mio. Rama non voleva dare via la sua terra, a nessun costo. Trascorse giorni senza toccare cibo, mangiava della frutta per sopravvivere e ogni giorno andava e arava. Continuerò finché non scoprirò perché la mia terra non produce nessun raccolto. Io semino ogni anno. Dove vanno i miei amati semi? Rama solcava e arava. Sono davvero molto stanco. Rama riuscì ad arare l'intero campo. Era tardo pomeriggio quando finalmente pensò di riposare. Rama era troppo affamato per continuare il suo lavoro. Stava per smettere di arare quando la sua vanga colpì qualcosa in profondità nel terreno. Cos'è questo? Sembra un qualche tipo di metallo. Oh, che enorme pentola! È strano. Chi seppellirebbe una pentola così in profondità in un campo? È davvero inutile. Rama era arrabbiato per aver sprecato il suo lavoro nel nulla. Gettò il piccone nella pentola di metallo e si sedette all'ombra dell'albero. Ah, penso che ora devo vendere questa terra. Non posso rimanere sempre affamato. Questa terra non mi darà mai nulla di buono. Rama si riposò all'ombra mangiando i frutti che aveva comprato per sé. I frutti non saziarono la fame che aveva. Rimase seduto per oltre un'ora a pensare alla sua terra e a sentirsi dispiaciuto. Sapeva che doveva dare via la terra. Non aveva altra scelta. Devo essere forte adesso. Questa terra ancestrale deve essere venduta. Devo andare a casa prima che faccia buio. Mentre Rama tornava a prendere la sua vanga, fu sorpreso nel vedere cosa fosse successo. Che cosa? Chi li ha messi qui? Sono stato qui tutto il tempo. Al suo ritorno, Rama scoprì che la pentola aveva 100 picconi uguali al suo. Non sapeva più distinguere il suo attrezzo dagli altri. Non può essere! È una pentola magica! Allora vediamo se... Rama tolse i 100 picconi e ci mise solo un chicco d'uva dentro. Non poteva credere ai suoi occhi. Quell'unico chicco si moltiplicò in 100 chicchi d'uva. Questa è davvero una pentola magica! Non posso crederci! Fammi portare questa pentola a casa! Oh, è molto pesante! Devo trovare una corda! Rama legò un'estremità della corda alla pentola e l'altra estremità ai suoi fianchi. Trascinò la pentola fino a casa e quando entrò in casa pensò a quali altre cose avrebbe potuto mettere dentro la pentola. Innanzitutto mettiamo un bel uovo. Sono molto affamato e oggi ho mangiato solo qualche frutto. Rama andò rapidamente al mercato e spese tutti i suoi risparmi per comprare un solo uovo. Quindi mise quell'uovo nella pentola e in pochissimo tempo la pentola era piena di uova. Rama era molto felice. Cucinò due uova per se stesso. Ah, non ho mai assaggiato niente del genere in vita mia. Ma che cosa posso fare con le altre 98 uova? Oh, posso vendere queste uova e guadagnare. Rama capì che la pentola non solo gli poteva dare da mangiare, ma poteva anche aiutarlo a guadagnare. Dopo aver venduto tutte le uova, Rama utilizzò la pentola per far moltiplicare cose diverse. Quando aveva bisogno di vestiti, metteva un piccolo pezzo di stoffa e la pentola dava un panno per realizzare dei vestiti per almeno 15 persone. Se aveva bisogno di magliette, bastava metterne una nella pentola e la pentola restituiva 100 magliette. In questo modo, Rama iniziò a mettere cereali, frutta, stoffa e persino spezie all'interno della pentola. La pentola magica continuava a dare molte cose. Gli abitanti del villaggio si domandavano come il contadino riuscisse ad avere tante ricchezze. Tuttavia, nessuno avrebbe potuto scoprire la verità. Rama nascondeva sempre molto bene la pentola, in un angolo della sua casa, sotto un panno. Un giorno, Rama pensò di mettere alla prova la pentola. Mise una gallina dentro e aspettò a vedere che cosa succedeva. All'improvviso, 100 galline saltarono fuori dalla pentola, sbattendo le ali. La casa di Rama ora era piena di galline. C'erano galline da tutte le parti. Oh, perché non ci ho messo dentro un bel pesce? Ah, come prenderò così tante galline? Rama le rincorse, ma le galline erano troppe. Si sedettero sul tavolo, volarono ovunque. Una volò e poi si sedette sulla sua testa. Oh, scendi! Venite qui, muovetevi! Ma le galline erano spaventate e sparpagliate ovunque. E all'improvviso... Oh no! Ma che cosa? Una delle galline volò e si sedette di nuovo dentro la pentola. La pentola moltiplicò altre 100 galline che saltarono fuori di colpo. Ah, la mia casa è diventata un pollaio! E ora che cosa faccio? Rama quindi coprì rapidamente la pentola e la tenne in un angolo della sua casa. Quindi corse fuori da casa sua. Tutte le galline lo seguirono. Gli abitanti del villaggio furono sorpresi nel vedere così tante galline finire fuori dalla casa di Rama. Quante galline! Devo usare la mia pentola magica molto saggiamente. Ma Rama non si rese conto che il soldato del re lo stava ascoltando. Udì parlare della pentola e corse subito dal re per spiegare l'intera storia. Com'è possibile così tante galline da una sola pentola? Che storia è? Questa deve essere una pentola magica. Portami subito qui Rama e la sua pentola. Quella pentola vale un tesoro. Rama sapeva il motivo per cui il re gli avrebbe chiesto di portare la pentola. Il re è un uomo avido. Forse vuole tutta la ricchezza solo per se stesso. Fammi vedere quella pentola. Questa è una pentola magica. Ma sei sicuro che possa produrre così tante galline? Sono curioso, fammi vedere che cosa c'è dentro. Oh no! Non farlo! Ma era troppo tardi. Mentre il re si chinava, scivolò e cadde dentro la pentola. Ora c'erano 100 re che uscivano dalla pentola. Prima che qualcuno potesse dire qualcosa, iniziarono a litigare l'uno con l'altro. È il mio trono! Non ti appartiene! No, è mio! Io sono il re! No, questo è il mio regno! La sala era colma di re. Salva il nostro re! Sì, ma qual è il nostro amato re? I soldati non riuscirono a trovare il loro vero re e in pochi minuti tutti i re si uccisero a vicenda. Al palazzo erano addolorati, perché adesso il regno non aveva nessun governatore. Rama capì presto quanto fosse pericoloso il potere della pentola. Corse verso la pentola e bang, la lasciò cadere sul pavimento. Era triste per aver perso la sua pentola magica, ma Rama possedeva una terra fertile per coltivare i suoi prodotti. Così iniziò a coltivare e visse una vita soddisfacente. La morale è: chi troppo vuole, nulla stringe.